fa Gianni, buongiorno Gianni. Avanti, chi è? Ehi, aspetta Francesco. Francesco? No, buongiorno a tutti. Ehi, già ti ascolto, basso basso, ma già ti ascolto. Sono felice. Sei lavorissimo, sei guarda la dondola. Mangio poco, per lavoro, sto fare anche il pezzo, sai. Cappalappa. Non va bene, la sua regolata, tutto non se la conoscerebbe. Era il positivo. Vabbè dai, tu, allora metti la foto con la palizzo, a più presto me lo dai, che funzioni, perché vorrebbe essere la vita. E intanto mi, che funzioni, se non funzioni te lo vedo comunque, cosa te ne faccio? Cosa c'ha già? E il microfono dice che ha fatto partire tutto. Ora dal tempo che ti senti non sta intermodulando. Dalla volta della capsula già. Dalla volta la capsula non è più piaciuto quel microfono. Sì, ma la capsula è l'originale, mi sa. Quindi la pericolo è stata tolta, poi rimessa. Boh, io non vorrei che perché io non l'avevo tolta quella piastrina. Comunque rispetto, perché non è partita il microfono, poi ditemi quello che mi volete dire. Ho lasciato, questo lo puoi sapere solo tu. Io dall'altra volta già mi ho detto che cos'è che non mi piaceva, intermodularla, eppure l'ho sempre sentito bene a Gianni, capito? Evidentemente può essere quello, non lo so. Sì, no, secondo me è arrivata anche la alimentazione alla parte audio, perché non è possibile che si sia stata la resistenza che si chiusa in fumo, transistor. Pilota del modulatore, poi il tipo di alimentazione del modulatore, tutti gruppati, finali, uno di pressione, due in corso. Sì, è peccato, la madonna. Che radio era? Era la giornata del mio, del Tai, il Tai con il Typhoon 2. Ah, accidenti. Che lutto ragazzi, bobo. Oh, ma già dello sistema, non riesco a recuperare i componenti dello sistema. Qua sotto è una noia. Come al solito già, sempre la figa lì, a Sassa non c'hanno mai niente, cioè. Tu vuoi comprare una cosa, una affrontata, non c'hanno mai niente. Arrata di niente io, faccio ridere. Ho dovuto ripetere qua in televisione ieri sera, perché non si trovava l'informato sulla tua dell'alimentatore. Con questo è un slide che da. Beh, Marco! Dormi. L'ultimo ti ho visto, stavo la vostra. Siete vicini? Eravamo dietro di lui. Ormai si è arrivato a casa. Va bene signori, che ci ho le storie ci devono attrarre se non si scuocio, eh? Ciao a tutti, ci sentiamo magari fessuare. Ciao Marco, adesso ti ho sentito, buon pranzo. Se non lo più riesci adesso. Ciao Valorosio, buon pranzo, buon proseguimento, buona serata. Ah, ciao, stasera. Ciao Marco, ci sentiamo, buon carico, là. E condoglianze, ciao. Dicimi tu. Che c'è quello di tuo, che ti invecchia. Condoglianze per la radio, no? Vabbè, molto poco se ne fa un altro, se vuoi così fa giusto, se ne compra un altro, non sarà quello il problema. Ah, io ancora, spegni il baracchino. Ciao! No, negativo! Ciao, che ci provo durato lì! Non ci sai quando stiamo, non c'è problema! Questo è nuovo, qua, di vecchio appunto! C'è la staffa che lucida ancora! Non c'è un graffietto, guarda, mi dispiace! Peccato! Guarda, già si ripara, ciao! Ciao Marco, avanti a tu! Ehi, a te il muscolo, avanti il muscolo fino! Ciao, non so chi sia, ciao Marco, mi ha provato, non so chi sia però, Marco, ciao sì, Marco, già chiuso, guarda la valutazione dell'EC7000, come faccio io, l'ECR 7650 euro, allora faccio il bicarbonato, ma non lo faccio, mi compro giù una ferraria. Stanno salendo i prezzi, le valutazioni stanno salendo, perché ci sono 20 euro di nuovo. Questo, ma non faccio niente questo dico, ma cioè in lire sono 650 euro, quindi sono all'incirca 1.300 gradine all'incirca, 1.200 rotti. Io avevo parlato nuovo, 1.500, 1.500, cioè, non ho perso niente a parlare. Molto semplice, posso fare una cosa, la devo vedere se vai più a fondo. Come si permette? Ciao a tutti! Ciao, ti faccio sapere più tardi come mando le parte. Ciao, sentiamo. Ah, sì. Sì, io sono andato a salutarvi, giusto perché stanno già apparecchiando qua. Quindi poco tempo e fa piena la panciotta. Non va che sta le qua, fare un trinfaro. Guarda ragazzi, anch'io vado a mangiare, poi mi sdraio un po' e ci sentiamo dopo. Già siamo qua in Corrix. Ciao Tino, Antonio, Gianni, Marco, chiunque fosse in agguato. Ci sentiamo dopo, ciao. Ciao, buon pranzo, buon riposo. No, Mario, è andato a fare la pasta, l'ha anche mangiata però, Mario. Sì, oggi la sera, domani, se ci passa, magari prendo un pochettino, lo do, mi fa quello che sono un po' in pizzeria. E lui dice, ora la pizza scrivo subito, Mario. Sì, ma se ti interessa ci si può parlare. No, ma no, non è che io non fate sempre, sono più 30 anni che non mi va. Ma io dovevo chiedere se non l'avevo visto. No, no, io perché se quest'anno è andata un'andata e ho deciso di non andare né a caccia né a pesca, però per uno dei motivi, perché volevo conoscere nuovi posti in giro e quindi non ho fatto niente, però l'anno scorso ogni volta che uscivamo ne facevamo 4 cesti di ricci, oggi veniamo a Magnaba. No, tu pensa che non mangiate una volta, la mia vita, io ci sono di a tre, non mi sento va bene, ricordo che c'è mio zio, tanti anni fa andavo a prendere il ricci, poi anche io ho avuto problemi di salute, non so più andare. Ma è strano. Va bene, dai, ti saluto che qua è pronto, sono da 10 minuti fa che mi stanno chiamando. Poi sentiamo qualche, dai, fammi un po' di telefono. Ciao, a più tardi. Ciao, sì, buon pranzo, ci sentiamo, a più tardi. Ciao Mario. Ciao Tino, buona carica, buon tutto. E a più tardi, dai. E niente, io mi sto finendo di mangiare un pochettino di contorno che avevo. E poi sono più libero. D'accordo, d'accordo. Ciao Flash, ci vediamo. Ciao a tutti, ciao. Ciao, Mario, così, quello che mi ha detto prima, anche prima di contorno, con la frutta. Beh, il secondo me lo sono divorato. Il contorno è sempre mancato, la frutta e il caffè. No, niente frutta. Dopo che mi mangio il contorno, il bel caffè. No, ma è per il caffè dopo che mangi. Quello di rigore. Contorno è per il giorno. Anche se lo prendo, non vai. Ah, io non posso andare oggi a pranzo, mi sono andato a fare dal volo. Ah, gappa gappa. Vabbè, a volte succede anche quello, Vabbè, no, io sono qui, la colazione sono qui, c'è la casa di mia madre qui vicino. Però, niente, sono andato per fare un po' io, ma voglio fare un po' perché le bottiglie mi costa. E io, quando mangio, poi a fare il cinema mi viene... ho capito, poi ci siete pesate e non avete fare nulla. No, ma mi dà anche la forza allo stomaco, quindi preferisco mangiare qualcosa, giusto per avere qualcosa allo stomaco, però poi vado subito, vai, sarà che ceno, grazie a Dio. Quindi preferisco, cenare bene che non pranzare, perché dopo pranzo mi sento già tutto lo stomaco, stare insieme a mangiare. Cappa, però dicono che bisognerebbe fare il contrario, perché se mangi bene a pranzo, dicono, che poi muovendoti a cosa digerisci bene, mentre che la sera se mangi molto, poi stai così, vai a letto e non ce la fai a digerire bene. Lo so Mario, lo so, però mi hanno operato lo stomaco, quindi o mangio così o non devo mangiare niente, se non posso mangiare sì, non tranne i capelli. Gappa gappa, hai già avuto anche problemi, è un casino Cazzo, abbiamo una vita di merda, sempre sofferenze, dolori. Invece, per carità, guarda, ogni giorno è peggio del giorno prima. E quindi dicono, dopo la schiaffa la più, c'è sempre il sole, ma in via il sole. E ora che avrà i dolori, che non c'è solo mezzo, cosa basta, ma vedi. Che lasci di sinistra. Allora, quello è il dolore, poi sai che cosa vuol dire? Ma non sai se te non ti crede, quello che le stai pigliando in giro. Lo so, Mario, guarda che a me quando abbiamo operato lo stomaco, abbiamo detto che avevo visto fino all'esterno. E adesso mi porta nel tanto tempo, perché qua mi sento io a due ore, non riesco mai a cantare. Eppure, si va avanti, Mario. Cappa, no, a me mi hanno operato un'ernia inguinale che mi è venuta. E poi mi avevano trovato delle colicite al fegato. Per adesso, sì, qualche dolorino c'è perché ci sono gli anni, ci sono i dolori e qualche cosettina la accusiamo sempre, però in linea di massima diciamo che già sto bene. Non so, io probabilmente non mi sono riuscito a toccare, perché mi va a tutti i dolori la domani mi hanno detto che se questo non si fa in un stomaco, su, sopra, la pelle, tutto praticamente contro tutti i sure. Ah, parco la microfono, cappa cappa e... Questi di là gli lasciano appaggio come la gente, va, per carità, oh yes, bubu. Mi sarà quello, meglio ricchi e sani che poveri e malati. Purtroppo, anche quello è una mamma. Ma mannaggia, a mai da un casino che faccio che sa grossa, bubu. Cappa. Ehi, mix, questo fine settimana dovrebbe venire un po' pugno e non lo faccio cagare tutte le vittime. Ciao, ma quello di fine si porta una fase sempre, perché cosa vuoi, ciao. Anche io l'altro giorno ho portato uno strumento nuovo, volevo mettere un microfono di un cliente, vado a smontare nel laboratorio, se vuoi mi piace la vita interna, io non l'ho già avuto il look, ho passato la scopa, ma che... Quelle sono talmente piccole che se non vedo la vaccata non la sappi più, eh. Infatti, cosa la farà? Non la faccio la tutti, no? Per dire che la prendi in due. Cappa. Perché secondo me dovrebbero fare un qualcosa tipo baionetta, no? Che si infila una con l'altra e poi gli fai fare quante due dita della posta. Ma che erano prima, Mario, di Simonti, quelli che la parte nera praticamente l'ha buttata in bandiera. E non c'è anche un fabbricano più. No, io non li ho mai conosciuto, ho sempre conosciuto questi qui. E purtroppo, anche lo so, me ne potrei spiegare io le viti quando ho quello sciagurato nelle tuglie. E invece, o per una cosa, o perché mi sto mettendo un bambino, o per quello, o per quell'altro. Per carità, mi ripete sempre. Ma tu basta che la mia reti da bere e non lo perde. Vabbè, cosa viene? Viene uno di a casa, ti fa anche a favore e mi dai la bere, bisogna essere più cani. Ma io ti viene la bere dopo che ho fatto il lavoro. Cappa, sarebbe anche un'idea quella. Prima la fa lavorare, quindi ti metti e poi ti bevi la birra. Tu non la piaccia, è portato che ti inizio. Cappa. Sì, quando molte volte vanno a fare la pulizia, ma se non te ne devi dire, no, fanno tutto, fanno bene. Ma che stato, ma è stato, la divisione, no, fanno tutto, le cose te la dici. Cappa, quella è la migliore soluzione, perché sei tranquillo e ti puoi anche rilassare 5 minuti. È la vera cosa, te la pulizia, non è va. Cappa. Che lo sono fatto a tu, che sai com'è, è meglio arrivare 2 minuti prima che 2 minuti dopo. Le 2:05, infatti adesso anch'io mi preparo. Ah, cappa io, ecco. Allora, quando esco da qui alle 3:20 a Vuglia, allora se me la prendo a niente. Io devo fare il caso davanti, adesso ti faccio un saluto, ti hanno fatto di diverso, buona serata, buon lavoro, buon tutto, niente, per fare la roba in macchina. Ciao Mario, dopo di domenica ancora, tante cose. Cappa, passo stasera. Buon lavoro e ci sentiamo stasera. A tuo rientro, ciao. Ciao di nuovo Mario, ciao. Oh. Pavabravo, Pavliero. Pavabravo. Pavabravo. Guarda, vai. Ma sai che Pavabravo? Devi fare bravo il mio nominativo. Cosa? Devi fare bravo il mio nominativo. Ah, tu ti chiami altro, devi fare bravo? Ma il mio nominativo dalla tua parte devi fare bravo. Aspetta che spengo l'altra parete adesso. E poi da qua sicuramente spinto troppo, io lo sentivo che stava, non stava andando bene bene come sempre. Sì, così, ripeto, se no, adesso stasera mi mandano la risposta per questi componenti, se no non so proprio cosa farli io. Io di solito era giusto quando faccio componente, non avevo questa componente. Che casino, ma te lo ricordo, c'è uno che ha un laboratorio da entrare in crisi per aiutare un baracchino, roba la mano. Tutti i giorni, là, dopo lo fare, se penso che io, una qualsiasi cosa che mi dava a riparare, posso mettere un usato, posso mettere un usato, posso mettere un usato, posso mettere un usato, posso mettere un usato, posso mettere un usato, posso mettere un usato, posso mettere un usato, posso mettere un usato, posso mettere un usato, posso mettere un usato, posso mettere un usato, posso mettere un usato, posso mettere un usato, posso mettere un usato, posso mettere un usato, posso mettere un usato, posso mettere un usato, posso mettere un usato, posso mettere un usato, posso mettere un usato, posso mettere un usato, posso mettere un usato, posso mettere un usato, posso mettere un usato, posso mettere un usato, posso mettere un usato, posso mettere un usato, posso mettere un usato, posso mettere un usato, posso mettere un usato, posso mettere un usato, posso mettere un usato, posso mettere un usato, posso mettere un usato, posso mettere un usato, posso mettere un usato, posso mettere un usato, posso mettere un usato, posso mettere un usato, posso mettere un usato, posso mettere un usato, posso mettere un usato, posso mettere un usato, posso mettere un usato, posso mettere un usato, una radio, cioè non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente, nulla da fare. Ma non è stato molto, non sono proprio sempre un tasso, se non è stato molto la storia, sono questo, non è molto, sono questo la nulla, sono questo il tasso, non è stato molto, ma è stato molto tu, ho detto che non sono stato molto, non è stato molto, non è stato molto, non è stato molto, non è stato molto, la carità di Dio, guarda, allucinante. Cosa non mi dica? Non so che dirti, ma mi dispiace perché è una radio nuova, insomma, non lo so. Non so, risultato lo faranno domani, ma lo so se l'ho lo controllo. L'ho controllato, allungato la frequenza. Il tuo su sarà quello normale, vuol dare a cura da un lato. L'ha allungato di molto il giusto. Ho detto che ha fatto il buono, dove non lo so, non la sua, ma con la sua frequenza. Da parte mia nessun problema, da parte di Claudio non credo, perché è il primo che te lo dice, si mette a posto come ti sente un po' usato male, così che non credo che sia da quell'apparato. Non so cosa ha avuto, ha guardato un po' con un rosso, pronto, con una mano, con l'altro fuso, con l'altro non stato buono. 44, di fatto la Intex. Sì, qua funziona, qua funziona, qua non funziona. Ma dove stanno andando? Allora stanno ancora, stanno soltanto, lo porto su così la trovo in aria. Oh, cazzo, sta trovando in aria, cazzo, che non la vuoi scudire in aria, no? Come se c'è un gatto che si fa male. Non lo so, però non lo trovo. Non lo trovo, sono intornato, sono dentro quello proprio qua, perché non c'ho la rotolata, sono stato che va la tua sua. Ecco. Ciao, come ti sei? Ciao, sono qui. Ecco, tutto sono qui, mi ascolti bene, non mi ho non sono stato. Ma però che vuoi cosa hai visto? Allora, tu, a lui, quanto è? Ma che faccio tutto, sono così male. Sei stato, e sono stato qua, dentro la cattura, ma non sono in banda laterale. Bobo? Vai, che gli sei da un'embriaca, tu. Non fai l'affidamento su queste cose qui. Quando c'è Torre te lo dice lui, c'è Natalino te lo dice lui, quando ci sono io che ascolto male te lo dico io. Cioè, lo prendo in faccia e ti dice, vedi se sei tutto un altro gobbo, tu credi che sei sempre gobbo. Scusa, perché non per fare questa parola con me, io, se cosa tu vuoi, ma devi questa scena bene, perché sono male, Mario. Sono scelato, sta uscendo così, sono scelato, si sente male con l'aria, c'è un salario basso, però con una tabù, cosa che non ho visto, però non ho visto, sto guardando ne ha, dici, sto uscendo solo alternata sotto, non ne ha, sono un rodo, lo fanno per farti uscire di testa. Allora, lo fanno per farti uscire di testa, perché vai a pensarlo in tutto in quel momento lì e non trovi difetti. E ti vado a dire di capo, ma non è così. La tua radio è bassa come modulazione, però è chiara il segnale, poi c'è un segnalone. Tanto la radio la posso anche aumentare, perché mi sono come sono sia normale, uno sta quello bravo sul canto e sicuramente esce meglio. Ma perché me lo dai questo punto? Si può sapere. Non falli adesso, non falli per lo bene. Ma con chi ce l'hai Natale? Con Antonio. Forse si è spostato. Antonio. E poi si è spostato Natale perché si sta caricando la macchina. Perché deve andare a lavoro anche lui. Oh Mario, la modulazione adesso più alta . Oppa. Questo c'è il microfono per amplificato. E ieri con questo ci va male, con l'altro ci va meglio, e già non so come cosa dici, arrangetevi. No, fai noi anche per così, parlo manco, nei miei confronti qui la radio è buonissima. Non c'ha fischi, non c'ha niente, non c'ha alternate, nulla. È pulito, pulito. Allora non so cosa dirti, abbiamo fatto abbassare l'applicazione, quindi mi chiede la mia, non c'era più radio. Adesso non so riuscendo, ho abbassato tutto. E tu devi sei fisi carbuenti. C'è uno che sta breccando, falla entrare Natale che tu sei pieno alto di me. Cosa? Aspetta un attimo, mi sto spostando un attimo, perché mi ha chiamato mia madre. Ma tanti ci vuole entrare su canale 10. Cacciolina in dove lo fuori? Ascolto sì! Allora se ti ascolto non stai uscendo bene perché ti arriva in uno e io sono di fronte ascolto. Vabbè anch'io come se fossi in macchina, perché anche se sono a casa ho la tua signora di macchina poi ho fatto la finestra, quindi. Adesso stai uscendo, sì, stai fischiando. Adesso stai uscendo di nuovo tanto, però almeno non finisci qui e ti capisco quando parli, scappa. Sì, no, è stato uguale, ma non c'è nessun figlio. Buonasera, io sono Antonio di Sessa, in compagnia di Mario Valser, sono qui ancora Claudio Salviero e Natalino che ha fatto la torre di bianco. avanti Mario, perché l'amico che riesce a sentirlo, cambio. Ecco, provo a mettere la salina perché lui è più alto, magari lo sentivo meglio, perché io l'ascolto basso basso, però anche tu hai detto che l'ascolti in basso, così che vuol dire che la radio su è fissa. Ho capito che è in via il movimento. Era qui in ascolto, Salviero, non so se ancora, Salviero ci sei, ti chiamano. Come? Mi sento sempre bene, ho sentito male. fatto bene. No, no, perché sta toccando la male, sta lontana, fa gli stesso, no, ecco, tu cagli lì un stesso. E a me mi sentite? Ah, ma chi è? Ehi, Marco sono, ciao, ciao a tutti. Come va questo apparato? Marco, lo segnale è alto, la radio è buona, no, non è niente di efficace, è molto precisa. Comunque bella forte qua arriva anche lo stesso arriva forte anche qua lasciatelo fare già rifatta io niente sto cercando di battagliare con questo apparecchio lo porto su e esco male lo porto giù e esco bene lo riporto su e esco male ora di lì va la vita della rovia. Ma io ti sento bene tu stai uscendo bene adesso guarda Marco non sento mai niente io mi stavo parlando su a casa di mamma a fare due passaggi, che non è che sono fuori per questa, che non è che sono andato alla serale, che non è che sono stato, che non è che sono alternato, io non mi dico la lunga di mezza. Sì, ma non è che c'è il stazionario, nell'altro no, Marco, sì, lo facciamo, ce l'ho, fanno la combattere il servizio, quindi mi accorgo, capisco. Sicuro che. Aspetta, mi lascio il tutto, perché il tutto è 27, 74, punto 94. Questo qui è 0,75, giusto, giusto, giusto. Figurati, è un gruppo che è forzato. Ma forse sarà per quello, altro lo sto anche a questo, e poi magari mi ascoltano bene. Sì, che siano spostati di frequenza gli apparecchi, non penso. E comunque non ricordi la tali apparecchi che non siano spostati, no? Volete trovare il punto 0,75 giusto? Non sono sempre il 74.90, punto 93, 75.10. Allora mi è capitato poche volte di trovare apparecchi che in approfondimento con la laboratorio mi sembra la frequenza esatta. Non capita praticamente mai. Ah, vabbè, queste sono le cose larghe, no? Non vuol dire, va sì. Ma non c'è che lui, anche se quello 440 o 440 lo corrige allo strumento dell'ambulatorio, non è mai allineato, mai. Sta sempre con il 1 e 2 o 6 che è da poco a poco spostato. Cosa vuoi che dica? Che c'è rimasto? Stava provando un'altra cosa, l'amico Marco dovrebbe rientrare. Se Salviero che incurisce, dice che deve andare a coricare, quindi non dovremmo esserci io, tu e Marco. Allora, guarda. E quella corda che avevi su, dai, va, che fine ha fatto? Anche tu. Ah, si è staccato. Ma come si è rotto? Lo strumento. Anche a un amico mio che gli ha rotto lo strumento. Ma non si trovano gli strumenti a comprarli, solo lo strumento di quegli accordatori lì. Come si trova, Natale? Non si trova niente. Cosa trovi? Sto scarica. E questo là, tipo il mio, lui c'ha un MSG. E se gli ho rotto solo dallo stazionario non sale. Ma io non lo sono già arrivato. Bravo. L'accordatore? Sì, no, l'ho trovato, l'ho accordato l'antenna. Quello della... Bella? No, la Vestroni, quella là di incrociato. Ah, come io, il 700 di L. Ah, questo qui è il 490. No, è anche il mio Vestroni. Quello è una bella. Niente, lo trovate, sono catalogo, mi chiedo tutto, però mi compro il cuore, però mi viene luce. Questo qui ha praticamente... Io mi trovo un macchinetro al corretto dell'antenna. Praticamente puoi usarlo come voltmetro anche per 144 MHz, per un CV, per tutto praticamente, come voltmetro. Anche come corretto dell'antenna, tu ha comunque l'antenna a due posizioni, quindi puoi attaccare due antenne, e in più ha tre LED che ti indicano il numero di modulazione. Mia Natalino, mi buongiorno. Buongiorno. No, io sta due antenne, il commutatore antenna 2, sta il luminoad, il carico fittizio, l'accordatore, però fa solo HF attento il mio. Allora, a me che non manca il carico fittizio, quello mio non sarà, quello mio fa tutto, tutte le bande. Anche il caffè. No, il caffè non lo fa, no, un gruppo. Eppure a quest'ora ci sarebbe voluto, vero Natali? Un bel caffè. Va bella bene, è buono. È buono però. E allora Natali, mi senti che ho ripiazzato l'antenna? Sì, a voglia che ti senti, speriamo che ti senta, a me bene. Se l'ho piazzata anche io l'antenna, anche se ieri me ne è scesa, l'ho ripiazzata. Cioè, avanti ieri me ne è scesa, ieri l'ho ripiazzata. Mi sono tenuto a rubare in due. Sì, sì, lo so. Me l'ha detto Salvatore, ma anche la mia è caduta per il vento, però il primo giorno del vento, la notte, quella micidiale, ha spaccato il palo, palo rotto, e ho dovuto rimettere su un paletto così, tanto per dire, c'era a 2 metri dalla terra neanche. È importante sentirsi, ti vorrei essere Marco che sta... attaccando un qualcosa per vedere, per provare, tanto. E quando l'hai visto Salvatore stamattina? Perché ieri sera era con me quando ti ha telefonato, infatti gli ho detto salutalo da parte mia. Sì, sì, sì, abbiamo controllato lo strumento, è andato. Bisogna ordinare il ricambio, sto cercando il ricambio. Sì, sì, visto che non si trova nessuna parte, anche Antonio, e è partito lo strumento del suono, il DAIVA. DAIVA non si trova, ma quello dell'MSG si trova. Io ne ho uno Vectronic, bello, quello è una bella V. Sì, lo conosco. Chi è l'altro amico, Natali? È Marco che non è più in radio, questo. Antonio, riserva questo, Antonio. Buongiorno, riserva. Riserva di chi? Scusa, chi sei? Scusa, non ho capito chi sei. Antonio, come te, di nome. Se ce n'è un altro, battezziamo l'asino. Papa. Ah, sì, Antonio di Lanzarote. Roger. Ehi, Antonio, quanta cosa che stai ascoltando? Non ti ricordi? Certo. Come va? Bene. E tu, tutto ok? Prima c'è l'altro, si va avanti, anche una cosa e l'altra, piano piano, è sempre andando. un giorno o due sono passati, no? Vediamo, attaccato per almeno 11 anni, quindi. Sì, abbiamo attaccato dal 93, ho preso un po' di mese, quindi. Accidenti, dal 93, cavolo! Ne è passato di tempo veramente tanto tanto. Ascolta, e quell'apparecchio che ti avevo dato io ce l'hai ancora? Quello che ti ricordi che ti avevo dato un barattino con le bande laterali, eccetera, è sempre? Ma ascolta, anche mai se cosa stai passando con mio cugino? No. Mi hai dato questo a me? Che cosa era? Uno con tutte le bande, 5 bande, l'uovo nuovo di Zeca. Non mi ricordo, mi ha fatto la testa, non me ne ricordo. Aspetta, come si chiama? Porca miseria, se mi viene in mente. Non me lo ricordo, vabbè, non fa nulla, vabbè, non sei santo. Avanti, Natalia. Esatto, io. Finalmente l'ho risolto, Antonio, la roba da chiudi. Da un anno senza entrare adesso. Infatti io quando entrato cosa fa? La modulazione che se veniva qua vicino, poi il segnale con Luca, se è possibile, sì, ce l'ha buttato, cosa ha fatto? L'antenna non l'ha buttata. Io ho l'antenna che è proprio bassa. Bassa. E in che zona? Ma non sei a casa tua con la solita o sì? La casa di mio padre, dice la vita di però io l'ambulazione lì, ho un attimino di macchina appoggiato sul tetto, niente di centrale, ho un attimino a 100 centimetri. Ecco il perché del segnale così basso, capito tutto. Antonio, buongiorno. E chi rientri? Ah, se mi ascolti, ti uso, buongiorno. Buongiorno Tino, prima non stavi sentendo di modulazione, sei tu che provavi a entrare, K? No, negativo, ciao Antonio, ciao Natalia, no. Io ho pronunciato visto che stavo uscendo, Ma non è che... Registrato. Capito tu. Roger, ma allora era qualcun altro che provava a entrare ma non c'era la voce. Avanti il break, buonasera. Antonio, Natalino, Antonio, Tino, eccetera, eccetera, avanti. Carissimo Antonio, che vale piacere sentirti, doppio rondo a questa parte, salutoni a tutti comunque. Buongiorno, e cos'è? Oggi è la sagrada remember, da ritornare indietro, buonasera. E allora, tanto, qual buon vento ti porta a queste parti? Vento di prova di antenna, me ne era, due giorni fa mi è scesa la mantova, è andata a terra. Spaccato il palo dal vento, ci va bene, ha rotto anche due alberi, perciò adesso l'ho rimessa su, rattoppata come ho potuto, sì e no, manco 2 metri da terra, ma la terra vera, non dal tetto della casa, proprio 2 metri dal suolo, capa. Ma sì, lo stesso bene, perlomeno qua ti arrivando fallo scala, figurati. Ma quello perché sono bello io. Allora mi sarebbe bene lo Smith. Avanti Natali. Io qua nel mondo posso vedere a colori, eh. Uia. Beh, me ne vado, ragazzi, devo tornare al QRL. Vi saluto tutti quanti. Un abbraccio e a presto. Avanti, passiamo l'antenna, Antonio. Riserva. E sarà lui a far girare. Saluto Tino, Doppio Room, Natalino. Un salutone affettuoso a tutti quanti. Alla prossima. Avanti Antonio. Ciao. ciao Antonio, mi ha fatto piacere risentirti dopo tanto, ti hanno una buona giornata, un buon lavoro, ti ascoltiamo, fate sentire più spesso comunque. Cata, vai Natalino per i saluti. Cata, ciao, buon ufficio, allora, 63 alle prossime, dai. Tu, buon trabacco, dai, e fate sentire più spesso. Ciao ciao, ci sentiamo. Ciao ciao, Natalino, non mi sono dimenticato, il microfono te lo metto in lavorazione. Come finalmente mi sono ripreso dal raffreddore dell'influenza, adesso riesco a capire qualcosa, te lo inizio a fare stasera, ciao. Ciao, grazie Antonio, non fa problem. Ok. Grazie. Marco, ci sei? Ma Marco ha detto trovava un qualcosa ma non è rientrato, boh. Sì, si vede un benedetto. Come non c'era la conoscenza? Antonio?